Buongiorno a tutti e benvenuti al primo episodio di Alla Conquista del Gioco, il nuovo podcast sul gioco da tavola. Io sono Pietro e con me c'è mio fratello Claudio. Salve. Noi siamo dimostratori di giochi da tavola da anni per l'associazione Forlivese Area Games, precedentemente Tana dei Goblin Forlì Cesena, e quindi siamo abbastanza invischiati nel mondo dei giochi da tavola. E la nostra intenzione era quella di portare il nostro hobby anche nel mondo del podcast, che è un altro dei nostri interessi. Sì, un'iniziativa un po' arrogante, insomma. Ma perché? Perché ci consideriamo superiori agli altri esseri umani. No, io non ho detto questo. Io semplicemente volevo unire i nostri interessi, però vabbè, se tu la vedi così. Comunque, per questo primo nostro episodio, Claudio ha scelto il tema. Anzi, prima di esporre il tema, Claudio, come abbiamo deciso di impostare la nostra trasmissione, visto che i podcast si fanno in modi diversi? Beh, alla conquista del gioco si basa proprio sullo spiegare categorie di giochi da puntata a puntata. Quindi noi prenderemo come esempio certi tipi di giochi o di modi di giocare e li esporremo puntata per puntata. Nel senso, vogliamo parlare di un genere di gioco, parliamo di quel genere. Vogliamo parlare di giochi che danno un certo, diciamo, certi punti di vista oppure metodi di gioco, regole particolari che hanno in comune. Quindi, insomma, prendiamo delle categorie e le spieghiamo puntata per puntata. E quindi sì, puntate media lunghezza, brevi, in cui cerchiamo di parlare il più possibile in modo più accessibile a tutti. Io direi che così possiamo riassumere il nostro podcast abbastanza rilassante da ascoltare mentre si fa qualcos'altro. Io consiglio sempre di ascoltare i podcast mentre si dipingono miniature. E sì, dato che stiamo tergiversando, possiamo, Iniziare, per sì. accorciare i tempi, iniziare, esatto. Quindi introduci pure il tema che abbiamo deciso per questo primo episodio, che è. Allora, dato come è già stato detto che noi siamo dei dimostratori e la nostra arroganza ci fa credere che Vabbè. sappiamo quello che vuole la gente, almeno questo è il mio punto di Sì, vista. io non ho mai detto questo, comunque andiamo avanti. No, ma lo sottolineiamo. Il tema di oggi sono due temi. Allora, il gioco che è adatto secondo ognuno di noi due per giocare in famiglia, quindi prendere anche mamma, papà, i nonni volendo e giocarci in qualunque momento, mentre l'altro è il gioco adatto per iniziare a giocare in questo mondo con gli amici, quindi molto semplicemente è un gioco per la famiglia e un gioco con cui iniziare con gli amici. Ok, vuoi iniziare tu? Prego. Va Famiglia o bene, amici? io inizierei con la famiglia, più semplicemente, io dico il mio titolo, tu dici il tuo titolo, poi passiamo ad amici, il mio titolo e il tuo titolo, e poi chiudiamo in bellezza. Ok, va bene. Allora, il mio non è un gioco di quelli classici tipo Dixit o Ticket to Ride, insomma, quelli che ormai conosciamo già tutti nella cultura del mondo del gioco da tavola. È un gioco, diciamo, un pochino più di nicchia, non troppo, perché in realtà si trova anche in italiano. E si chiama Skull King, ho detto l'italiana Skull King, ma la pronuncia è Skull King. Ed è un gioco a tema piratesco. Diciamo che ho scelto questo gioco perché diciamo che si basa molto diciamo, la nostra zona, la Romagna, perché è un gioco di prese. E ho visto che attira, ma attira chiunque, da adolescenti fino ad anziani. Perché nella nostra cultura c'è molto questo giocare carte e prendere combinazioni, poteri, semi. E Skull King è praticamente una briscola con i pirati, più o meno, con qualche regola aggiuntiva. Ed è assurdo perché, cavolo, io porto questo gioco con me, lo faccio provare amici, amici di amici, nonni di amici, e dopo subito se lo vogliono comprare. Diciamo che è una pubblicità involontaria, io non vorrei neanche vendere il gioco, mi piace giocarlo, però vedo che piace a tutti e se lo vogliono subito andare a comprare, nella sua semplicità. Il gioco ispira ad essere pirati, perché nel regolamento diciamo, ti dice di comportarti un po' in modo piratesco e fare i ho ho ho nei momenti giusti. Generalmente è una briscola che si basa sul puntare o quante mani vincerai o quante mani non vincerai, perché a volte puoi anche puntare sul fatto che non vincerai nessuna mano tra le carte che giochi. E semplicemente nel gioco ognuno di noi è un pirata, può puntare pappagalli, tesori, mappe, la bandiera, quindi Jolly Roger, oppure usare poteri speciali utilizzando pirati, bellissime sirene o nel rarissimo caso l'unica carta, la più forte del gioco, che è il re dei pirati, lo Skull King. E quindi il gioco in sé è una briscola piratesca molto simpatica, veloce, un gioco anche a un prezzo molto economico, se lo trovate, se lo cercate su internet si trova tranquillamente nei vari siti di giochi da tavola. Skull King è il mio gioco, da 2 a 6 giocatori, ottimo per le famiglie, si vendono un sacco di copie involontariamente. E che dire, direi che ho detto tutto. In effetti, giusto un piccolo aneddoto, il suo costo ridotto è anche un vantaggio in più, perché ad esempio io ho comprato Skull King, che poi tu hai conosciuto di conseguenza, proprio semplicemente perché costava poco e aveva dei bei disegni. Il gioco non lo conoscevo e a quanto pare è piaciuto a tutti, un po' meno a me, cioè a me piace, però non ci gioco tanto quanto gli altri. La mia copia è stata usata più dagli altri che da me alla fine. Sì, è abbastanza usurata, ma l'unico problema del gioco sono alcune regole che sono un po' così, però basta aggiungerci delle house rule e il gioco prende che è una meraviglia. E infatti io quando lo gioco di solito aggiungo qualche regola personale e vedo che prende un po' di più, ma questa è una cosa mia, in realtà va benissimo anche col suo regolamento base. In realtà io sono più d'accordo con te, perché nel regolamento base c'è la regola per cui fare una presa con un pirata fa valere più punti alla fine della mano, mi sembra abbastanza insensata, però vabbè, ognuno poi decide come giocare. Ce n'è una ancora più insensata allora, che è quella che il primo pirata giocato sconfigge tutti gli altri pirati, e quella crea un errore nel gioco, perché se tu sei il primo giocatore e hai solo pirati in mano, di pirati ce ne sono 5 nel mazzo, praticamente vinci tutte le mani, perché tu sei sempre il primo a giocarla. Dire che è un errore no, però effettivamente va un po' controcorrente verso le altre regole. Ad esempio il Jolly Roger, la bandiera, la ritirata, è il contrario, è la più forte, quella dell'ultimo giocato, ma se la giocano tutti perdono tutti, non era così? No, se la giocano tutti perde il primo che l'ha giocata. Ok. E niente, quindi in realtà c'è qualche regolina un po' così. Io l'ho giocato sia col regolamento base, ovviamente, alle prime partite. Ho adattato un po' delle mie regole, dopo diciamo che il gioco prende un po' meglio. E sono d'accordo anche gli altri che giocano con me, quindi. L'unica edizione che si trova da noi è quella della Schmidt Spiel, che però si trova in alcuni negozi online, anche se ho visto che il gioco in alcuni paesi è edito da Devir. Visto che Devir Italia ha iniziato a infoltire il suo parco titoli nell'ultimo anno, non mi stupirei se tra poco uscisse anche un'edizione italiana della Devir, che di giochi a tema piratesco ne ha veramente tanti in catalogo, se non ricordo male. Jolly Roger, e mi sembra che Odyssey non è proprio piratesco, direi, è più Odissea, però vedremo se la Devir porterà Skull King in Italia. Ok, questo era Skull King. Che era il tuo gioco consigliato per? Gioco per le famiglie, per le nonni famiglie e bambini, perché anche i nonni lo adorano, quindi, quindi va bene per tutti. Non allora, è uno scherzo, è vero. No, ti credo. E forse in area demo, visto che parlando da dimostratori, in area demo magari è un po' più difficile per la confusione e la durata del gioco, che magari prevede che anche un dimostratore rimanga lì a seguire il gioco per segnare i punti, però forse no. Sì, diciamo che la mia idea è più un gioco da giocare in casa, magari quando c'è un temporale oppure non sai cosa fare. Quello lì è un giochino veloce di 30 minuti, tranquillo, e te lo giochi lì. Ma se c'è un temporale e non va via la luce, perché se va via la luce esiste un solo gioco da tavola che si può giocare a luce spenta. Ma se va via la luce, lo giocherai di ruolo, improvviserai un po' il tema Sì. piratesco No, e qualcuno farà il pappagallo. intendevo quel gioco da tavola tedesco, che adesso non mi ricordo il nome, che si gioca a luce spenta, dove devi trovare i gnomi seguendo le ombre, te lo ricordo. Sì, però Però, ecco, anch'io non ho il nome in questo momento. non ricordandoci il nome, lasciamo perdere per ora. Magari nel prossimo episodio sveleremo l'arcano su questo gioco tedesco. E, ok, andiamo oltre, tocca a me. Invece il mio gioco per famiglie è molto più noto, molto probabilmente, ed è Cash and Guns. Cash and Guns della Repos o Asmodee in alcuni paesi, ma io qui ho sempre visto l'edizione Repos. Vabbè, perché è giusto, l'edizione Asmodee è quella nuova, quella con i disegni di Kovalic. Esatto. Allora, io ho sempre giocato con l'edizione della Repos, quindi so che l'edizione Asmodee ha delle differenze. Ad esempio, se non sbaglio, il poliziotto non è nella scatola base, ma è un'espansione. E nella scatola base comunque c'è una nuova modalità di gioco, mi sembra. Adesso però, non conoscendo, io parlo della prima edizione, che è del 2005, più varie ristampe. Allora, la prima edizione della Repos, lo scatolone quadrato con i disegni di Mathieu invece che di Kovalic, di Cash and Guns. Cash and Guns è questo gioco dove il gruppo interpreta dei rapinatori che dopo una rapina si stanno dividendo il malloppo. E ovviamente ci si divide il malloppo a colpi di pistola, perché ognuno vuole la parte più grossa. In più, potrebbe esserci, se a inizio partita decidiamo che ci sia, anche un poliziotto infiltrato, proprio in stile Le Iene di Tarantino, no? E infatti, se nelle Iene non si stanno proprio dividendo il malloppo, però questo capannone con i criminali e l'infiltrato a me fa venire sempre in mente Reservoir Dogs. E allora, come funziona il gioco? Il gioco è un gioco di bluff, un party game di bluff, in cui la componente sicuramente più forte è il 3D, ovvero le pistole di foam o gomma piuma. Anche quelle ricambiano a seconda dell'edizione, perché inizialmente erano nere, ma siccome nelle aree demo la gente si spaventava, la Repos ha deciso di farle arancioni, perché la gente credeva che fossero pistole vere. Queste cose le ha dette la Repos, quindi suppongo siano reali. Adesso Beh, pensa, se giocassi in un aeroporto con le pistole nere, non fai una bella figura. in aeroporto magari no, però sì, effettivamente, effettivamente la convention di Board Game Geek si tiene nella hall di un aeroporto, cioè nella sala conferenze di un aeroporto, quindi comunque la struttura è quella. E quindi dicevo, la componente 3D, che però dell'edizione nuova Asmodee è un po' rinforzata perché hanno aggiunto la scrivania. Adesso vediamo le regole prima. Allora, come funziona il gioco? Ognuno di noi è un rapinatore e a sua disposizione ha un mazzo che va a consumarsi durante la partita, in cui ci sono dei mancato, due proiettili e un proiettile più veloce che si chiama Bang Bang Bang. Quindi abbiamo questi mancato, questi miss, per non andare a confonderci con Bang, il gioco Bang della Da Vinci, dove ci sono i mancato. Qui abbiamo i Bang Bang Bang e il Miss. Allora, durante ogni turno di gioco verranno svelate delle banconote, che è il numero di giocatori più niente, Una, numero di giocatori, giusto? ma mi pare ce ne sia una in più, forse. Forse più uno. Comunque potrebbero accavallarsi alle banconote rimaste dai turni precedenti. Adesso non mi ricordo il regolamento, la precisione del setup, però andiamo oltre, andiamo a parlare del regolamento, del come funziona un turno di gioco. Dicevo, ogni giocatore quindi ha questi proiettili, semplicemente di base, e il suo personaggio che è uno Stendis, che è un cartoncino con disegnato il suo personaggio che sta in piedi. Questo perché è importante il fatto che può essere ribaltato. In contemporanea, tutti quanti mettono una carta coperta della loro mano, che può essere quindi un proiettile o un cilecca, e dopodiché si fa un conto alla rovescia e tutti quanti puntano la pistola di foam verso un altro giocatore, che è quello che intendono minacciare con la carta che hanno coperto. Quindi possono bluffare e puntare la pistola e avere il caricatore vuoto, o puntare la pistola e avere un bang. A quel punto tutti quanti si rendono conto di chi li sta minacciando, e ovviamente ci possono essere giocatori che non sono minacciati a nessuno e quindi sono tranquilli, loro, la loro parte di malloppo ce l'avranno sicuramente, e bisogna decidere se o rischiare per avere il malloppo e rimanere in piedi, ma quindi anche rischiare di beccarsi un proiettile, oppure buttarsi a terra, evitare il proiettile, ma non prendere parte allo spartimento del bottino. Quindi tutti quanti mettono il dito sul loro stendis e, nuovo conto alla rovescia, chi vuole buttarsi a terra lo ribalta. È qui che entra in gioco, come dicevo prima, la nuova edizione dell'Asmodee, che aggiunge la scrivania, che rende un pochino più scenica la cosa di buttarsi a terra, è un po' più carina da vedere, c'è questa scrivania da mettere davanti al proprio omino. Dopodiché, chi non si è buttato a terra e chi non è stato ferito da un proiettile può prendere parte a spartizione del bottino, che ha regole particolari sulla priorità a cui dare le banconote. Invece il bang bang bang, che è quello che tutti ne hanno uno solo, è il proiettile più veloce, praticamente arriva prima degli altri proiettili, quindi se qualcuno, mettiamo che c'è un duello tra me e te, tu spari il bang e io il bang bang bang, il mio arriva prima del tuo e tu non riesci a spararmi, hai sprecato un bang e cadi per terra. E poi quando si viene feriti si ottiene una ferita, al tre ferite il personaggio è morto. Mentre quando ci si butta a terra per schivare i proiettili volontariamente, si ottiene un segnalino codardo, che sono meno 5.000 dollari a fine partita. Non è esagerato meno 5.000 in realtà. Direi che ogni tanto conviene prenderlo, anche perché la partita dura 7 turni, abbiamo 3 di vita, possiamo prendere anche 3 proiettili in un turno se abbiamo sfiga, e quindi direi che ogni tanto bisogna buttarsi a terra. E ecco, queste sono le regole principali del gioco. Dopodiché ci sono due varianti, la variante del poliziotto e dei poteri. Sto andando per le lunghe, cerco di chiudere in fretta, va bene? E allora, Sì, sì. il poliziotto funziona in questo modo. Oltre ai rapinatori che cerco di vincere facendo più soldi possibile, c'è questo poliziotto che deve chiamare i suoi dalla centrale per fare venire per fare una retata. Per poterlo fare, il poliziotto deve arrivare alla spartizione del malloppo. Dopodiché ci sarà tutti i turni, perché il poliziotto ovviamente è coperto, gli altri non sanno chi è, questo passaggio della carta telefono, questo nella prima edizione della Repos. Nell'edizione Asmodee non so come abbiano risolto, perché la carta del telefono effettivamente è forse la meccanica un po' più difficile da fare girare, perché magari c'è un giocatore che vara o qualcuno che non ha capito bene le regole e va a monte la partita. Praticamente c'è questa carta che da un lato ha il poliziotto, ha il telefono fermo, che nessuno che chiama, e dall'altro lato ha la chiamata alla centrale. Questa carta viene passata sotto al tavolo, e se il poliziotto viene passato sotto al tavolo tra i giocatori che hanno partecipato alla spartizione del malloppo, quindi bisogna anche, cioè, è anche un po' difficile magari passarla, perché uno è dall'altro lato del tavolo e devi saltare altre tre persone, e il poliziotto, se è tra questi qui, può girarla dal lato della chiamata. A quel punto l'ultimo giocatore che ha in mano sotto al tavolo la carta la fa vedere, e se è stata girata vuol dire che il poliziotto ha chiamato. Alla terza chiamata la polizia arriva, il poliziotto deve sopravvivere 2 turni, quindi entro 5 turni il poliziotto deve fare le 3 chiamate. È molto difficile perché deve partecipare 3 volte alla spartizione del malloppo e riuscire a non farsi beccare, perché quando tu fai la chiamata e siete in due, già in due possibili, già iniziano gli altri a mangiare la foglia. Vincere col poliziotto non è facile. E la problematica di questa regola è appunto che la gente può barare rigirando la carta o girandola, anche perché a volte ci sono persone che non si capisce bene cosa facciano al tavolo da gioco e magari chiamano anche se sono criminali, oppure possono non aver capito la regola e magari il poliziotto si perde un turno solo per questo, o qualcuno rigira la carta perché non è stato specificato che i criminali non possono girarla, magari, che è abbastanza sottinteso. E questo è il poliziotto. L'altra variante che si può aggiungere al gioco è i poteri speciali. Ogni giocatore inizia la partita con un potere, che sa solo lui e che può rivelare quando vuole. Alcuni sono, la maggior parte sono monouso, altri sono infiniti. Mi sembra che siano continui, vero? Ce ne sono giusto un paio. Sì, ci Sì, sono. alcuni si rivelano a fine Sì. partita, altri si C'è. attivano in certi casi, altri sono monouso, dipende dal potere. Esatto, sì, ad esempio c'è quello che prendi la pistola di un giocatore morto e hai due pistole, quello continua finché non muori, quindi anche fino a fine partita. Oppure c'è quello che a fine partita fai più soldi per il numero di giocatori morti. Oppure ci sono quelli che usi una sola volta, in un'occasione. Quindi c'è questa variante con i poteri che rende il gioco più cacciarone, però anche un po' più sbilanciato, perché magari uno prende il potere più forte e quell'altro prende quello inutile. La variante migliore secondo me è il poliziotto. Giocare in tanti giocatori col poliziotto, sicuramente in 6 giocatori, è la meglio col poliziotto, è la cosa più bella. Ma io ho trovato che il gioco base, anche senza le varianti, è molto molto bello. Sì, sono d'accordo. Infatti, per questo che ho scelto Cash and Guns. E mentre le espansioni non le conosco, c'è l'espansione con la Yakuza che aggiunge gli Shuriken e la Katana, mi sembra anche un Sì, oppure per secondo. comprare l'Uzi in singolo, solo perché è più bella. Sì, però non la conosco e quindi non ne parlo. E vabbè, dopo oltre a questo esistono varie promo come il fucile a pompa e altre cose che non sono rilevanti. Quindi il mio gioco era Cash and Guns, che come dicevo prima ha una nuova edizione oltre a quella della Repos, che si trova ancora però a un costo più elevato, costa dai 40 ai 50 euro se non sbaglio. Però è molto molto più bellino. Sicuramente a me i disegni di Kovalic non piacciono, quindi alla nuova edizione scelgo la vecchia, però la vecchia ha un costo più contenuto perché la scatola base senza espansioni costa sulla trentina di euro. E se vi piacciono i disegni di Kovalic, il disegnatore di Munchkin e Chess Geek, sicuramente è di vostro gusto. E essendo dell'Asmodee ha anche una distribuzione molto migliore di quanto può avere la Repos in Italia, che si trova solo nei negozi online o nei negozi di hobby molto grossi che tengono molto magazzino. Mentre i giochi Asmodee, avendo anche l'appoggio di Asterion in Italia, si trovano più facilmente. Tocca a te, Claudio. Passiamo al tuo gioco per amici, per gruppo di amici. Ero tentato di spararti un triplo bang perché sei andato troppo per le lunghe, effettivamente, ma ti sei salvato. Ti conviene buttarti a terra, potrei cambiare idea. Sarò più veloce col prossimo gioco. Scusami, ma sono molto. Io sono un gran ciacarone. Sei Vai, vai. una locomotiva, insomma, va bene. Allora, passiamo al secondo tema, giochi per amici. Posso Allora, provare a indovinare la tua scelta, poi non dai. parlo più. Dai, Per dai, me hai sentiamo. scelto Sì, Oscuro Signore. No, l'oscuro signore semplicemente ogni tanto viene fuori perché è la mia seconda personalità da giocatore, ma Va non è bene. il gioco che ho scelto. Va bene, va bene. Ma un Anche giorno ne l'avatar è anche parleremo. l'avatar che hai su Skype, tra l'altro, durante questa chiamata. Allora, prima di dire il gioco scelto, vorrei spiegare un attimo in base a cosa l'ho scelto. Il gioco che ho pensato è un gioco più che altro per giocatori adolescenti, magari massimo su, sì, 18 anni, che proprio vogliono iniziare a entrare nel mondo dei giochi a tavola. Quindi non è qualcosa di troppo complesso, è qualcosa di molto semplice, molto rigiocabile, con tante varianti, ma che si trovi anche facilmente e ovviamente anche in italiano. Ed è un gioco che non ho da molto tempo, ma in realtà gira da tanto tempo nel mondo dei giochi da tavola, infatti ha anche una valanga di espansioni, e il gioco di cui sto parlando è Smash Up, diverse fazioni, un solo destino. Ma nel titolo intero semplicemente è Smash Up, questo è il sottotitolo. Che cos'è Smash Up? Semplicemente è un gioco dove ogni giocatore unisce due razze in un'unica fazione assurda, e deve cercare di distruggere le basi degli altri giocatori, e quindi di altre razze assurde. Il gioco base è un gioco molto completo perché ha ben 8 razze diverse, e quindi comprende un totale di 28 combinazioni differenti, perché ogni giocatore sceglie due razze e ci fa un unico mazzo. E tra queste abbiamo maghi, alieni, pirati, gnomi, ninja, zombie, dinosauri e robot. E quindi possiamo creare alieni pirata, dinosauri zombie, maghi robot, cose assurde, insomma. Non si... Ma in realtà neanche troppo, dai, cioè, ho visto cose più strane, tipo torri fatte con animali. La cosa bella di Smash Up è che il gioco base contiene uno scomparto per i mazzi che addirittura tiene fino ad altre due espansioni. Quindi, se tu compri il gioco base, ti puoi comprare anche altre due espansioni che stanno dentro la scatola del gioco Questa è base. una grandissima idea. È un'ottima idea. E inoltre, l'altra cosa positiva di Smash Up è che se invece lo si vuole prendere singolarmente, magari come un giochino da due, si può anche comprare solo un'espansione e ogni espansione è fatta per giocare in due giocatori, perché ogni espansione contiene quattro mazzi, a parte una che è uscita da poco che ne ha cinque all'interno. Altra ottima idea, a quanto pare. Sì, poi c'è anche la furbata ovviamente, esiste anche una, chiamiamola espansione di Smash Up, che si chiama The Big Ziki Box, che semplicemente è una scatola gigante per contenere tutti i mazzi di Smash Up e dentro ha semplicemente una rasta promo. Però è una scatola e basta, praticamente. Non è la prima volta che succede, è successo anche per Zombicide e altri giochi questa cosa. Certo. Ma in realtà non è una cattiva idea, se sei un amante di Smash Up te lo puoi permettere, perché inoltre contiene anche i segnalini per dividere le fazioni tra scomparto e scomparto, quindi anche il segnalino grande con l'immagine del mostro o della razza. Ci sono molte curiosità divertenti su questo gioco, perché si basa molto sul citare film, personaggi famosi, attori. Per esempio, c'è una razza che sono le formiche giganti in una delle espansioni, che una gran parte delle carte di questa razza ha come titolo della carta le canzoni dei Queen, per dire. Non so il perché, però è fatta così quella razza. Adesso vado a vedere perché questa cosa non la sapevo e mi incuriosisce parecchio. Sì, mi ricordo che c'è tipo We Are the Champion, probabilmente anche qualche altra canzone adesso. Adesso non ce l'ho con la Rust. Però il gioco base è molto completo, ha un prezzo molto buono anche Smash Up, non costa tanto. Si giocano molte partite perché si possono fare molte 28 combinazioni solo col base. Ci sono molte espansioni, tipo 7-8. Io personalmente ho comprato il base più l'espansione più zuccherosa che c'era, che aggiunge le principesse, i gatti, le fate e i pony, e non mi sono pentito minimamente perché adesso posso giocare i gatti zombie e i pony pirata, e che sono combinazioni molto divertenti. Con il potere dell'amicizia possiamo sconfiggere gli alieni e i loro cari nemici e amici. Comunque, il gioco come funziona? È tremendamente semplice. Ogni razza ha un mazzo di 20 carte, quindi noi avremo 40 carte mescolate. Ogni giocatore ha 5 carte in mano. In gioco ci saranno un numero di basi pari al numero di giocatori più una, che sono i posti che dobbiamo distruggere per ottenere punti. Il primo giocatore che fa 15 punti vince la partita. E le basi hanno un punteggio di resistenza, che è un numero indicato sopra. Nel nostro mazzo di ogni razza troviamo seguaci e azioni. I seguaci sono i nostri sottoposti della razza selezionata, che hanno un valore di forza e un potere che si attiva in determinati casi, e vanno giocate all'interno di queste basi. Le azioni sono dei poteri che possiamo utilizzare su o basi, o su seguaci nostri o avversari, o per interagire con le mani o i mazzi nostri o degli avversari. È tutto qui. Nel nostro turno noi possiamo giocare un seguace e un'azione, a meno che non ci siano delle regole speciali che ci dicano di poterne giocare un altro in più. Finito il nostro turno, si calcolano i punteggi di danni fatti alle basi, cioè conti il punteggio di forza di tutti i seguaci sotto una base, ogni seguace ha un valore di forza, quindi una base può contenere anche seguaci di altri giocatori, e quando il valore di forza di tutti i seguaci messi insieme su quella base raggiunge o supera la base a fine turno, quella viene distrutta e vengono dati i punti vittoria a secondo di chi è più forte in quella base, più eventuali effetti. Dopodiché tutti quei seguaci e la base vengono distrutti e scartati e viene fuori una nuova base. Finito il turno si pescano due carte e si passa al nuovo giocatore. Quando un giocatore arriva a 15 punti, la partita finisce. E questo è Smash Up, un giochino veloce, in media dai 30-40 minuti, un sacco di variabili, un sacco di espansioni. Ho trovato molte persone che se ne sono innamorate abbastanza facilmente, che volevano giocare molte altre partite per provare altre combinazioni, perché come ho già detto ce ne sono 28 nel base. E quindi direi che ottimo per iniziare, soprattutto se vi interessa e vi piace il base, passare anche alle espansioni non è una cattiva idea perché ce ne sono veramente tante e basta aggiungerne una solo per aumentare un sacco le combinazioni. Questo è Smash Up. Hai qualche consiglio su qualche espansione particolare che ritieni più? Beh, sì, l'ho suonato a studiarmele un po' tutte. Allora, ci sono. Allora, prima di tutto una cosa sul base. Ho trovato che nel base la razza dei ninja è un po' noiosa perché non è molto interattiva e di solito i giocatori che scelgono i ninja non è che si divertono molto, come una delle due razze scelte. E ho trovato che gli alieni invece sono molto forti, nel senso che fanno un sacco di punti abbastanza velocemente. Quindi sono due razze un po' così. Le altre invece sono molto più equilibrate, secondo il mio parere. Parlando di espansioni, quelle che trovo più interessanti, a parer mio, sono la prima espansione. Che il nome della prima espansione forse non me lo ricordo perché è diverso sia in italiano che in inglese, mi viene il nome in Monster inglese. Smash, no, quello che formica. No, quello lì è Arrivano i mostri, che è la quinta espansione. La prima espansione di Smash Up, vado a darci un'occhiata intanto che sono qui. E l'altra espansione è quella che ho scelto io, che è molto divertente, che è la sesta espansione, che dovrebbe essere tipo carini e coccolosi, una cosa simile. In inglese è Pretty Pretty Smash. Esatto. La prima espansione di Smash Up la trovo solo in inglese. Ah, eccola, è Super Mega Ultra 9000. Non so perché sia quello il titolo, perché non. Cioè, forse per una delle fazioni che c'è dentro può aver senso, ma le altre tre boh. E mi interessa perché sono fazioni molto particolari. Abbiamo i fantasmi, che si Ah, basano sul scartare carte per aumentare il loro valore di forza, fare punti a quanto pare. I cavalca orsi, cioè esseri umani cavalcano orsi, vabbè. che sono molto forti a livello di forza. Le piante carnivore e gli steampunk. L'altra espansione, invece, è carini coccolosi, come ho detto, aggiunge i gatti, le principesse, i pony col potere dell'amicizia e le fate. Poi ci sarebbero anche le espansioni di Cthulhu, che aggiunge una meccanica aggiuntiva e quindi è un po' strana. C'è l'espansione sulla, diciamo, sci-fi, che aggiunge, o comunque il fiction, che aggiunge le spie, i viaggiatori nel tempo, i cyber gorilla, i mutanti. C'è Anche Munchkin vedo. la versione Munchkin anche, sì. Poi c'è quella dei mostri, che aggiunge i classici mostri dell'orrore, i vampiri, i lupi mannari, i Frankenstein e le formiche giganti. Una delle ultime che è uscita invece aggiunge i greci, gli street sharks, quindi gli uomini squalo, i draghi, i supereroi, è una quinta fazione segreta che scoprirete solo quando comprerete il gioco, quindi non dico che cos'è. No, Ah, non c'è proprio scritto nella scatola. è una sorpresa. Quando Che tu bello. l'apri c'è una quinta fazione. Qual è l'espansione, scusa? Oddio, questa non è uscita in Italia. Cease and desist. No, it's your fault. Ah, Perché si ok. chiama così perché avevano fatto una votazione per decidere quali razze mettere, quindi hanno fatto votare la gente. Quindi per questo è colpa vostra. Esatto, è colpa vostra se ci sono queste razze. Aggiungo una cosa, ho visto tutto il set delle formiche. La scelta dei Queen probabilmente perché c'è la regina, però c'è la Ok. carta We Will Rock You che è bellissima. E niente, questo è Smash Up. Molto, consiglio molto il base, volendo anche un'espansione in più non ci starebbe male. Adesso noi in Italia Smash Up è facilmente trovabile essendo edito da Uplay. E Esatto. il prezzo, tu ti ricordi più o meno che gamma di prezzo è? Ma dovrebbe essere intorno ai 20-30 euro. Ok, tutte le Il scatole e le base. espansioni costano di meno. Le espansioni 10-15 euro probabilmente. Ah, beh, dai, non c'è male. Non c'è male. E tutto qui, non c'è altro da aggiungere? Ma no, è un gioco semplicissimo. Va giocato per essere espresso, perché bisogna interpretare queste cose assurde. Cioè, devi fare il dinosauro zombie. Non. Cioè, è proprio strano quando lo giochi. Cioè, quando lo giochi lo interpreti, perché tu dai un equipaggiamento assurdo a un'altra razza. Ti faccio un esempio. Sì. Io do il ciondolo col cuore al pirata. Sì, Il sì, sì. ciondolo delle principesse. Diventa un po' c'era una volta così, perché effettivamente giocandolo come gioco di carte, freddo deck building, giocandolo come Dominion, perde un po' tutto il suo perché questo gioco, diciamo. Sì, invece quando tu sei dentro al gioco, sai, è il tuo turno, ah, in questa base c'è un ninja che mi dà fastidio, gli do una padellata e lo uccido. Sì, sicuramente è meglio così, perché la forza di questo gioco non è la meccanica, il suo essere È il tema, è il un tema, è pandemonio l'unione di di cose. tutte queste cose strane che creano qualcosa di unico. Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda un po' War Angel, ovvero cioè, tutte queste razze assurde, però in versione gioco di carte. Sì, però lì sono ancora più assurdi in War Angel. Salutiamo il nostro amico Angelo Purazzi. Ok, Ok. tocca a me. Allora, io per il gioco tra amici ho scelto un cooperativo perché io sono un amante dei giochi cooperativi, come scoprirete, visto che parlerò forse probabilmente più che altro di quelli. Però, invece che scegliere un cooperativo sempre entry level, però medio, come potrebbe essere il bellissimo Shadow over Camelot, ho scelto un cooperativo che è proprio quasi essenziale. Non ai livelli essenziali di un'isola proibita, che è veramente, diciamo, l'essenziale, ma una via di mezzo, diciamo, tra quest'isola proibita e Shadow over Camelot. E questo gioco è il cooperativo del Signore degli Anelli di Reiner Knizia, che è anche un cooperativo che ha un po' di anni, essendo del 2000. Allora, noi a casa abbiamo la prima edizione italiana dell'editrice Zocchi, addirittura pensate, quando l'editrice Zocchi faceva veri giochi da tavola, seri, e non cose proprio che troviamo al Centro Giochi 2000 dagli 8 anni in giù. Questo gioco di Knizia, che probabilmente molti di voi avranno sentito come autore di giochi, ogni tanto anche preso in giro nelle community perché è il più prolifico del mondo, ma ultimamente si è dedicato più che altro a fare giochi per bambini. È il suo lavoro, lui è forse, cioè, uno dei pochi che vive facendo questo lavoro e fa bene a fare quello che fa. E quindi giudicarlo in questo modo supponente di ah, fa i giochi per bambini, una volta faceva Ra. Vabbè, lasciamo perdere questi atteggiamenti. Rispetto per il grande Reiner. Bravo Rainer. Questo Signore degli Anelli risale al periodo in cui appunto a lui fu affidato il brand Tolkien, perché anche il gioco di Beowulf, la versione di Tolkien, è stata affidata a Knizia e ha alcune meccaniche in comune con questo Signore degli Anelli. Allora, questo gioco cooperativo. Noi interpretiamo i cinque Hobbit, come nel libro, c'è aggiunto alla compagnia c'è Grassotto Bolgeri, Fredegario mi sembra, Fredegario Bolgeri detto Grassotto, che nella storia rimarrebbe praticamente nella contea, però qui nel gioco da tavolo per aggiungere un quinto giocatore, assieme a tutti gli altri quattro Hobbit, può arrivare fino a Mordor. Grassotto e gli altri quattro Hobbit, Sam, Frodo, Merry e Pipino, sono i giocatori, gli altri membri della compagnia sono carte evento che ci aiuteranno. Noi siamo questi hobbit che devono tentare di portare l'anello a Montefato, quindi arrivare fino in fondo e non fare cadere l'anello nelle grinfie di Sauron, perché gli altri giocatori possono morire durante la partita, ma non il portatore dell'anello. Quindi una cosa importante del gioco è gestire il portatore dell'anello in modo sensato, cioè non fare a botte per essere il portatore dell'anello, ma darlo a chi è più lontano da Sauron. Allora, perché ho definito questo gioco un cooperativo essenziale? Perché questo gioco è veramente cooperativo nel vero senso della parola, cioè non c'è nessun motivo per volere primeggiare o per volere essere un ruolo più di un altro, essere più avanti degli altri. Cioè, in questo gioco, se tu hai una carta in mano, non usarla per aiutare un altro giocatore non ha veramente alcun senso. Non sai, cioè, non, nei cooperativi moderni, soprattutto perché c'è la meccanica del traditore, o perché in alcuni come in Dead of Winter vince il gruppo, ma vince, può vincere anche uno solo, c'è questo volere primeggiare o comunque non aiutare sempre al massimo. In questo gioco è come giocare all'unisono, sei un giocatore solo con mani differenti e quindi è il cooperativo nel vero senso della parola. Anche agire di testa propria ha senso fino a un certo punto. Allora, di base il gioco è composto da varie plance. Abbiamo la plancia del cammino della compagnia, dove gli Hobbit partono da una parte, Sauron parte dall'altra e quindi rischiano di incontrarsi. A seconda della difficoltà in cui decidiamo di giocare, Sauron farà più passi. Se giochiamo a facile, mi sembra siano 15. A media dovrebbero essere 12-13, 2-3 di differenza, e altri 2-3 di differenza giocando a difficile. Giocando a difficile, veramente difficile. Interessante. Nelle altre plance abbiamo le plance dei vari incontri grossi del cammino della compagnia, e sono il Moria, il fosso di Helm, la tana di Shelob e Mordor. E basta, queste sì, non ci sono altre plance. Stavo confondendo. E in queste plance ci sono vari percorsi, in tutte ce ne sono tre, tranne l'ultima che ce ne sono quattro. Questi percorsi sono caratterizzati da un seme, perché il gioco è basato sulle carte che hanno dei semi, che sono il nascondiglio, il combattimento, la collaborazione e, in questo momento mi sfugge l'altro, è il movimento, cioè il piede dell'Hobbit. In più c'è il Jolly. Allora, noi dovremo mandare avanti, durante il nostro turno, uno di questi cammini, giocando una carta. Mandare avanti il cammino ci fa ottenere cose o tirare il dado nero, il dado maledizione. Dado maledizione di Ghostoris, vabbè, il dado Fator, se non sbaglio. E quindi questi cammini indicano quanto siamo vicini a concludere lo scenario. Però penso di aver saltato troppo avanti, aver saltato una parte. Scusate, facciamo un piccolo rewind. Allora, la compagnia parte da la contea. Nel tabellone dove gli Hobbit e Sauron si muovono, sopra c'è anche un cammino della compagnia. Il cammino indica incontri minori e incontri maggiori. Negli incontri minori sono sempre segnati in quella plancia, semplicemente la compagnia riceve carte e magari tira il dado maledizione, oppure può decidere di scartare carte per non tirare il dado maledizione. Scusate, lo chiamerò dado maledizione per via di Ghostoris, ormai i dadi neri sono sempre dado maledizione anche in Dead of Winter, anche se è rosso, mi sembra. Il dado negativo di un cooperativo ormai è il dado maledizione, grazie a Ghostoris. E quindi ci sono questi eventi minori che, una volta risolti tutti i passaggi, andiamo avanti, fino ad arrivare a questi eventi maggiori. Gli eventi minori sono la Contea, Gran Burrone e Lothlórien, dovrebbero essere solo tre. E sono i momenti in cui riceviamo le carte più forti del gioco, che sono i compagni della compagnia, Aragorn e tutti gli altri, e i doni di Galadriel. Sono delle carte che hanno più di un seme e quindi ci fanno fare più passi o sono più utili a risolvere i problemi che incontriamo. Ok, visto questo, come funziona uno scenario di un incontro grosso? Prendiamo ad esempio Moria. Allora, abbiamo a sinistra gli eventi. Questa barra degli eventi avanza quando richiesto dal mazzo, diciamo negativo, adesso non saprei come chiamarlo in questo momento, che è una pila è una pila che ogni giocatore deve girare all'inizio del suo turno. Questi eventi normalmente sono negativi, ci richiedono di scartare carte o di prendere corruzione per non fare succedere cose peggiori. Dopodiché, nella plancia ci sono le tre vie principali, a Mordor sono quattro. Le tre vie hanno un seme. La via maggiore, quella più grande, è quella che è richiesta da finire per finire lo scenario. Le due vie minori servono ad ottenere cose, quindi le due vie minori possiamo anche non portarle avanti. L'importante per finire lo scenario è portare avanti quella maggiore. Per potersi muovere sopra bisogna scartare carte del suo seme. Adesso vediamo come funziona il turno di un giocatore. Un giocatore nel suo turno deve girare una tessera dalla pila delle tessere negative. Adesso non mi viene in mente un altro nome. Come diresti? Ah, devi Va bene, girare il tuo destino. chiamiamola pila delle tessere Fato. Io le chiamo tessere perché nelle edizioni di Trieste Giochi sono proprio dei quadrati di cartone. Non so se nella nuova edizione abbiamo fatto delle carte o dei token. In questa pila ci sono o disegnati i semi o disegnate cose negative, che sono la meridiana, che fa quindi andare avanti gli eventi della plancia, oppure il giocatore che gira la carta prende corruzione, oppure Sauron avanza, oppure la richiesta di scartare carte per evitare un evento e così via. Insomma, oppure lanciare il dado può anche esserci. La regola è che il giocatore di turno gira e risolve finché non arriva a un seme per poter avanzare. Quindi un giocatore, se il mazzo è stato mischiato in un certo modo, può beccare anche quattro cose negative, tipo due eventi, tira il dado nero e Sauron avanza, e risolverli tutti prima di poter finalmente muoversi nella mappa. A quel punto, quando finalmente arriva al seme, lui, il giocatore si muove nel percorso del seme disegnato. Se il seme è quello che manca nella plancia, perché a parte Mordor tutti gli altri manca un seme, avanza in quello che gli pare. A quel punto lui fa il suo passo e ottiene quello che si è disegnato nel passo di quel percorso. Allora, nel percorso possono essere disegnati anche alcuni token che sono il sole, l'anello e Cuore. il cuore. Cosa servono questi token? Alla fine dello scenario, per ogni token che ti manca, tra anello, cuore e sole, il tuo Hobbit prende un corruzione. Quindi bisogna distribuirseli, è qui che arriva la cooperazione, cioè uno non può fare man bassa di cuori perché gli altri si beccano la corruzione, bisogna distribuirli in modo equo, cioè non fare che uno li ha tutti e tre e uno ne ha zero. E quindi muoversi in modo sensato per tutto il gruppo. E alla fine dello scenario, inoltre, chi ha più anelli diventerà anche il nuovo portatore, quindi anche fare man bassa di anelli non ha senso se tu sei il giocatore che nella plancia della corruzione è più avanti di tutti ed è davanti a Sauron. Bisogna cercare di tenere l'anello al più lontano possibile da Sauron. Ok. Si va avanti così finché un giocatore non finisce il percorso principale della plancia. A questo punto l'evento è finito, i giocatori pescano carte e dopodiché si va avanti seguendo le indicazioni del percorso della compagnia. Cosa posso aver dimenticato? Ecco, giusto, ho scordato una cosa. Dopo aver girato la tessera e essersi mossi, grazie alla tessera, al seme uscito, il giocatore può anche scartare due carte, fino a due carte, per muoversi ancora. L'unica regola è che le due carte che scarta devono essere di tipo diverso, perché nel gioco ci sono carte bianche e carte grigie. Se vuoi fare un movimento, ti basta una carta. Se ne vuoi fare due, devi usare una bianca e una grigia dello stesso seme. Ad esempio, tu non puoi fare due movimenti in due percorsi diversi. Quindi o giochi un movimento bianco e vai avanti di uno in movimento, o se vuoi fare due passi sul movimento, giochi un bianco e un grigio di movimento o di jolly. Altrimenti ci sono i personaggi della compagnia o i doni di Galadriel che hanno due semi, quindi già una carta basta per fare due movimenti. Oppure, se non vuoi giocare carte, durante il tuo turno puoi stare fermo per curare di uno la corruzione e quindi torni indietro. Tutto qui. Semplicemente la cooperazione sta nel gestire i movimenti e nello scartare le carte al momento giusto, perché molti eventi richiedono di scartare carte in gruppo e quindi come in Shadow Over Camelot e quindi bisogna calibrarsi. Un'altra cosa che può fare il gruppo è chiamare Gandalf. Durante i percorsi si raccolgono punti vittoria, che sono dei piccoli scudi. Questi punti vittoria servono per che alla fine non basta vincere, bisogna anche fare il punteggio migliore. Quindi la compagnia che ha giocato meglio c'è un segnapunti nella scatola in cui segnare il proprio record. Inoltre c'è anche una variante per premiare il giocatore che ha fatto più punti, anche se questa mi sembra che non abbia senso in un cooperativo. E questi punti si possono scartare durante la partita per chiamare un incantesimo di Gandalf. Gandalf ha alcuni incantesimi che sono disponibili all'inizio partita e si possono comprare durante qualsiasi momento del turno pagando punti vittoria in comune. Quindi La cooperazione sta nel muoversi in modo sensato, senza pestare i piedi agli altri, senza andare troppo avanti per i propri scopi, nel scartare carte in gruppo e nel usare i propri punti vittoria dividendoli per comprare Gandalf. Basta, non mi sembra ci sia altro da dire. Ti viene in mente qualche regola che ho saltato del gioco? Ma bisognerebbe minacciare Gandalf, perché bisogna pagarlo, scusa. Perché lui è un professionista e i professionisti hanno la loro parcella. Sì, anche se si tratta della salvezza della Terra di Mezzo. Per il resto, un'altra cosa, le carte sono monouso, le carte evento sono monouso, i compagni e i doni di Galadriel vanno scartati a parte, e i Gandalf sono monouso, mentre le tessere negative che peschiamo vanno sempre, il mazzo una volta finito va sempre rifullato. E basta, non ci dovrebbe essere altro. Ogni hobbit ha il suo potere speciale, e molto diversi tra loro. E basta, tutto qui. Il gioco, se non sbaglio, è finito. Se ho dimenticato qualcosa, ho detto castronino nel regolamento, mi dispiace. Sono andato a memoria delle mie tante partite, chiedo venia. Contattateci, fateci sapere se abbiamo sbagliato. Faremo rettifiche nel prossimo episodio. Non vale solo per Mason e Danelli, vale per tutti i giochi che abbiamo fatto stasera. No, solo per i tuoi, hai troppo difeso, dici troppa roba. Certo. Va bene, colpa mia. Vabbè, io non porto giochini di carte che durano poco. Vabbè, sì. Cash and Gun, sì. Vabbè, dai. Prossima volta spiegheremo Twilight Imperium. Scherziamo. E, un'altra cosa. Questo Signore degli Anelli in Italia, parliamo un attimo della produzione, della distribuzione più che altro. Signore degli Anelli in Italia in questo momento penso si trovi la versione della Stratelibri. Controllo un secondo, giusto per dire la fascia di prezzo. Sì, e costa una trentina di euro più o meno. Edizione da Stratelibri. Ok, perfetto. Il gioco ha un po' di lingua, quindi per chi non mastica l'inglese, magari optare per l'edizione italiana, che ha la scatola più piccola e composta rispetto all'edizione che abbiamo noi dei 10 giochi, che aveva una scatola esagerata. E basta. Io direi che siamo arrivati per questo primo episodio. Ehi. Allora fateci sapere, commentate, e se Aspettiamo. volete provare qualche gioco il venerdì sera con l'Oscuro Signore, chiedete uno di questi quattro titoli, noi li abbiamo sempre nel nostro oscuro magazzino. Sì. Ok, E quindi niente, aspettiamo una vostra risposta, telespettatori. allora lasciamo un attimo un paio di contatti. Allora, se volete venire a giocare con noi, ci trovate tutti i venerdì sera dalle 9 al Bar President a Forlì, all'associazione Area Games. E il 3 e 4 settembre saremo anche a Comics Popoli, sempre con Area Games, la manifestazione ludica di ludica, la manifestazione Comics Games di Forlì in Popoli, Forlì, Cesena. E poi ci trovate sulla pagina Facebook di Area Games, che è Area Games Games ACSD, Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica. Mentre per altri contatti nostri, tipo un sito ufficiale o altro, ancora non sappiamo. Quindi per ora diffonderemo il podcast su iTunes e YouTube e poi vedremo se creare una pagina e una mail ad hoc. Giusto? Ah, non lo so, sei tu il minion che se ne occupa. Ok. Quindi per ora ci sentiamo qui. La nostra idea è di fare un episodio settimanale. E per ora non siamo ancora in grado di annunciare una data fissa per ogni episodio, quindi iscrivetevi al canale YouTube per avere la notifica di quando uscirà il prossimo e dopodiché, appena avremo delle certezze, decideremo anche un giorno fisso, giusto? Giusto? No, sì. Ok. Hai idea di cosa parleremo nel prossimo episodio? Facciamo un piccolo trailer. Ma io chiederei consiglio anche ai teleascoltatori, scusate, mi sono Sì. sbagliato, prima ho detto telespettatori, Sì. ma in realtà non ero io, era un'altra personalità. Sono d'accordo, quindi commentate, fate sapere la vostra opinione, cosa vorreste cambiare, cosa vorreste sentire parlare. E ci salutiamo qui con alla conquista del gioco, Pietro e Claudio vi salutano. Ciao ciao! Ciao, al prossimo episodio.